la versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon martedì 25 di febbraio, sono le 16.35 e 56 secondi, siamo in diretta qui dagli studi Radio 24 di Milano e benvenuti alla versione di Oscar, grazie per chi continua a scaricarci e non si può sentire in diretta. Oggi il punto della giornata è anche obbligatorio come ieri, perché nel frattempo il dibattito sulla fiducia al governo non è ancora concluso, anzi dovremmo essere quasi in concomitanza, tra pochi minuti c'è la replica conclusiva al dibattito sulla fiducia del Presidente del Consiglio Renzi. Ieri sera, lo sapete, in tarda nottata il Senato ha votato, 169 a favore, 139 contrari, perso qualche voto rispetto alla media delle fiducie al governo Letta, e anche oggi quindi vi chiedo, visto che poi rispetto a ieri avrete letto i giornali e vi siete fatti un'opinione insomma di questo stile del tutto nuovo, imprevisto di Matteo Renzi e delle tantissime critiche che ha ottenuto, non tanto per lo stile, perché ha parlato agli italiani e non certo seguendo le convenzioni parlamentari, ma perché insomma è mancato un po' di numeri, è mancato un po' di concretezza, è stato molto chiaro nell'assumere le responsabilità dicendo se fallisco la responsabilità è solo mia. Ma insomma le critiche sono state tante. Anche oggi la Camera, anche nel suo stesso partito, non solo Civati, che è stato duro come ci si aspettava naturalmente, ma lo stesso Fassina, che pure in direzione non aveva votato no alla responsabilità di governo per Renzi e all'addio al governo Letta, ha fatto un intervento molto, molto critico, e avrete sicuramente visto sui quotidiani stamani quanto fossero numerosi i mal di pancia all'interno del PD. Quelli dell'opposizione sono ovvi e scontati, non era proprio ovvio che gli interventi dei parlamentari di Forza Italia berlusconiani fossero così zuccherosi come sono stati ieri e oggi anche alla Camera, che la dice lunga su quanto su questo governo pesi la doppia maggioranza, quella necessaria per fare le riforme elettorali e istituzionali e con Berlusconi. Quindi, mentre io aspetto che 800240024 iniziate a telefonare, vi presento l'ospite di oggi con cui ragionare, ora che praticamente il passaggio di fiducia alla Camera, sapete, tutto scontato, non siamo sul filo di pochi numeri come al Senato, è praticamente compiuto, e resta solo la curiosità giornalistica di vedere un po' quale sarà la replica di Matteo Renzi alla Camera. Vedremo se anche alla Camera avrà strali per i 5 Stelle, che negli interventi a Montecitorio sono stati durissimi, gli hanno dato del figlio di Troica e non è stata una delle cose più pesanti che si sono sentite stamattina nell'aula di Montecitorio. E con noi per parlarne, e io molto lo ringrazio, è un giornalista, editorialista di Europa, curatore insieme a Claudio Velardi del sito thefrontpage.it, Fabrizio Rondolino, grazie di essere con noi. Grazie a te Oscar, grazie a voi. Allora, ti ha sorpreso ieri e oggi? E che cosa ti ha convinto di più e che cosa ti ha convinto di meno del Presidente Renzi? Beh, guarda, sono la sintesi che tu hai fatto mi trova perfettamente d'accordo, no? Come si dice, sono d'accordo col compagno che mi ha preceduto, no? Come era una volta il Comitato Centrale. Perché ho le assemblee studentesche? Perché effettivamente io non... mi hanno anche dato un po' fastidio le reazioni negative sul tono, sull'aplomb, insomma questo è un Parlamento dove un deputato ha mangiato la mortadella, adesso non è che siamo a Westminster, ammesso che poi in Inghilterra siano più educati di noi. Voglio dire, il tono non mi sembra una critica fuori luogo, mi preoccupa invece un po' di più la cosiddetta agenda, o meglio, lui ha detto delle cose, ha detto anche delle cose importanti, però poi ho avuto come l'impressione che ogni volta le sminuisse, le relativizzasse. Ti faccio l'esempio classico, il cuneo fiscale, no? Perfetto, questa è una rivoluzione, sarebbe una rivoluzione. Ma se lui dice, cercando risorse non soltanto con la spending review, vuol dire che ipotizza da qualche altra parte di mettere nuove tasse o di rimodulare le tasse sulle rendite finanziarie, come è stato poi interpretato la finta gaffe di Del Rio. Cioè, oppure quando parla di scuola, benissimo, facciamo tutte le aule che volete, ma ci sarà anche un problema di selezione di insegnanti, di verifica del merito degli insegnanti, perché la scuola italiana non è soltanto in crisi perché mancano le aule, è in crisi perché mancano insegnanti preparati, perché da 20 anni nessuno ha fatto un concorso e i precari vengono stabilizzati per decreto. Cioè è un Renzi rottamatore o riformista o liberale, a seconda della gestione che preferiamo, soltanto a metà, e questo devo dire è la cosa che mi lascia più perplesso. Io devo dire che ieri pomeriggio, quando eravamo freschissimi dell'intervento al Senato, io naturalmente sull'onda della speranza, ne facendo la sintesi, dicevo: beh, una delle cose più significative, oltre al pagamento di tutto il residuo del debito della pubblica amministrazione tramite CDP, che non è un grosso problema, è sicuramente questo abbattimento a doppia cifra del cuneo fiscale, perché la maggioranza di noi giornalisti, sto dicendo, nelle prime due ore si interrogava se quel doppia cifra significasse il doppia cifra rispetto al 48% che è il totale del cuneo fiscale. Fiscale, doppia cifra significava levarne almeno un quarto, cioè significava, insomma, avvicinarci con 30 miliardi di euro in meno a medie, diciamo così, tali, tenendo conto anche dell'IRAP, poi quasi paragonabili a quelle tedesche. Poi abbiamo capito che non era così, allora abbiamo pensato: ma sarà il 10% di quel 48%, comunque sì. 5 punti in meno. Invece no, poi alla fine in serata ci è stato detto no, e in tutto 10 miliardi sul totale. 10 miliardi sul totale, 5 di IRAP e 5 di cuneo fiscale, è praticamente una cosa che, francamente, io non so dire a chi ci ascolta che avrà questi effetti così strepitosi. Ricordate che quando Prodi intervenne furono 5 miliardi, non si videro per nulla sull'effetto della crescita. Però vedremo. Da questo punto di vista, invece, che cosa che ti è piaciuto di più, quello che ti ha sorpreso? A me di Renzi è piaciuto quello che mi piace di lui in generale, cioè questa straordinaria energia, che è veramente un elefante in cristalleria, insomma, credo che fosse una metafora usata da Letta, no? Quella della politica come cristalleria, dove bisogna muoversi con cautela, eccetera. Lui no, assolutamente. E lui, alla fine è lui il programma. Noi siamo qui giustamente a discutere, a cervellarci sul cuneo fiscale, 10 miliardi, 30 miliardi, ma nella visione del mondo di Renzi, Renzi in sé è garanzia di cambiamento, è motore di cambiamento, perché ha tanta energia, perché è giovane, perché è fuori dagli schemi, eccetera, eccetera. Questo messaggio qui, che ha tutti i rischi naturalmente del caso, io non voglio sottovalutare, perché poi questo è un paese dove, diciamo, le avventure populiste, le derive demagogiche sono, ahimè, all'ordine del giorno, però come dire, incistato in un sistema oramai allo stremo, qual è quello italiano, tant'è che in due mesi lui è diventato Presidente del Consiglio, no? Questa è una cosa incredibile che ci pensiamo. Però la debolezza di questo sistema e la scanzonatura di Renzi messi insieme, che si vedeva plasticamente ieri, no, in quel discorso, forse produrranno lo scossone di cui abbiamo bisogno. Ma senti un po', ma ci spieghi un secondo questa singolare cosa di una parte fondamentale del partito? Sto pensando non solo a Civati, sto pensando alla sinistra, ai giovani turchi, che al congresso, quindi non troppo tempo fa, poco tempo fa, erano contrari a che il segretario andasse al governo. Poi cambiano idea, dicono no, devi andare al governo. Adesso, dopo aver votato che va al governo, fanno degli interventi in aula ipercritici, oppure, come stamattina si vedeva nell'intervista della Finocchiaro, sono letteralmente inorriditi. Che cos'è che sta avvenendo a distanza di un anno da tutto il disastro fatto da Bersani? Tra l'altro Bersani è tornato in aula oggi alla Camera, beccandosi un ampio applauso trasversale molto sentito. Ma che cosa è successo al PD? Cosa continua a succedere, Fabrizio? Ma guarda, la mia impressione è che siamo davvero ai colpi di coda di una storia anche gloriosa, diciamo così, perché... Colpi di coda, di Renzi. Altro che la strepitosa nuova atmosfera renziana che li porta a vincere. Tu dici colpi di coda? No, i colpi di coda di quella che oggi è la minoranza e che fino a ieri è la maggioranza assoluta, cioè, per intenderci, il ceppo post-comunista, che attraverso varie reincarnazioni ha di fatto sempre tenuto la guida abbastanza saldamente. Anche quando non governava in prima persona, anche Franceschini è stato segretario del PD, però tutti sapevano che Franceschini era, diciamo, una figura di passaggio, manovrato dagli oligarchi di sempre. Adesso uso una terminologia un po' volgare, ma ci capiamo, senza per questo esprimere un giudizio. Questo mondo qua, cioè il mondo che 20 anni fa è uscito al PC con l'idea di fare in Italia sinistra socialdemocratica, eccetera, eccetera, ha fallito, c'è poco da fare. Poi la rottamazione può anche essere, appunto, anche qui un'espressione volgare, ma la consunzione politica di quella storia lì è evidente. Allora, adesso loro, che erano il Partito Comunista, diciamo, ed erano il Partito Democratico, si ritrovano ad essere una minoranza esigua e a sua volta lacerata, perché, come tu ricorderai, tu dici la minoranza, ma guardare i gruppi figli delle primarie del PD della fine del 2012, sì, tanto minoranza non mi sembrano. No, i gruppi, c'è un'evidente maggioranza bersaniana, perché col Porcellum i gruppi parlamentari, come noto, li nomina segretario pro tempore del partito, quindi questo. Però tu sai anche che i deputati, come dire, poi si adeguano, no? Io penso che ci siano due tendenze contrastanti che tu giustamente hai rilevato nel tono di interventi. Uno è che questo governo se lo tengono perché è comunque una garanzia contro le elezioni anticipate, e metà di quel gruppo parlamentare sa che non tornerà in Parlamento con Renzi, e quindi, diciamo, tira a campare, e nel tirare a campare c'è anche il votare la fiducia o l'appoggiare il governo. Dopodiché quegli stessi soffrono anche di notevole mal di pancia, e in cuor loro, anche se è una cattiveria, però mi permetto di dirla, sperano che Renzi si sfracelli, cioè lo mandano lì per dire vabbè, così adesso il fenomeno si sgonfia, no? Ed è un calcolo meschino, alla fine no, perché la politica vive anche di esatto. È un calcolo miope, perché se Renzi fallisce, io francamente vedo soltanto Grillo, non vedo né un centrodestra che riprende la guida del paese, né un altro leader di sinistra che no, la faccenda diventa sì, Grillo e Berlusconi comunque resta magneticamente in grado di beccare più voti di quanto ogni volta non si creda, malgrado i siluri, malgrado sia fuori dalla politica. Adesso abbiamo un minuto di ritardo, andiamo all'informazione stradale, ci sentiamo tra 60 secondi. La versione di Oscar. Eccoci, tornati in diretta, 16:48, 15 secondi. Niente, siamo alle ultime schermaglie in aula, interventi sull'ordine del giorno prima della replica alla Camera dei Deputati di Matteo Renzi. Nel frattempo alcuni sms ai nostri ascoltatori, per esempio Maura ci dice: mi interessa solo passare meno di 50 giorni all'anno, come faccio oggi, dietro carta, sportelli scadenti, sulla pubblica amministrazione ho sentito cose nuove, speriamo che davvero lo faccia. Ci sono ascoltatori più vicini a Grilli che dicono: è tutto un patetico teatrino, e l'unica cosa è togliersi dalle palle l'euro, ci scrive più di qualche ascoltatore. A dire la verità, qualcun altro vorrebbe chiaramente sulla CDP, che dispone di depositi correntisti postali, e alcuni dicono che vogliono scipparli per pagare i debiti dello Stato. No, il problema è che il Ministero dell'Economia può attingere a una cosa che si chiama conto di tesoreria della Cassa Depositi e Prestiti presso il Ministero dell'Economia. Ecco, nel frattempo Renzi si è alzato per la sua replica. Io nel frattempo lo sento con l'altro orecchio, vediamo se dice cose interessanti, tanto che ve le facciamo sentire. Ma in questo conto corrente di tesoreria del Cassa Depositi e Prestiti presso il Ministero dell'Economia, a cosa serve? È uno strumento di garanzia dove si mette un bel po' di liquidità raccolta dai correntisti postali nel caso in cui gli stessi correntisti decidessero di ritirare i depositi. Allora, in quel conto dovrebbero stare 15-20 miliardi, invece ce ne sono 130. E allora, facendone rimanere un buon numero a garanzia del fatto che i correntisti postali si improvvisamente impauriscano, il tesoro di lì può attingere, perché la CDP è estranea al perimetro del debito pubblico. Così è avvenuto l'anno scorso, che hanno pagato 22 miliardi la prima tranche del debito pubblico, e quindi di là si può attingere. Il problema è, se come ha fatto capire Renzi ieri, oltre che prendere i 30 miliardi che mancano per il pagamento delle imprese, poi solo 30, perché il tesoro dice che adesso sono 50 in totale, la Banca d'Italia ci aveva detto 6 mesi fa che erano 90 miliardi, ma al detto questo, Renzi però ha detto che vuole attingere di lì anche per rafforzare i fondi di garanzia alla piccola e media impresa, che vuole attingere di lì anche per tante altre cose, e allora lì si pone un problema, vedremo da questo punto di vista. Abbiamo due rapide telefonate e poi è sempre con noi per commentare, le facciamo commentare a Fabrizio Rondolino, giornalista, che è con noi per commentare Renzi ieri e oggi. Cominciamo con Maurizio da Perugia. Prego Maurizio, che impressione hai di Renzi? Sì, guardi, semplicemente fuffa, perché lui farà una crescita a debito. Il suo sistema è molto semplice, utilizzerà Cassa Depositi e Prestiti per dargli 500 miliardi di crediti inesigibili che l'INPS vanta un po' da anni. Questi verranno messi in un derivato che verrà ceduto come collaterale alla Banca Centrale Europea per avere 100-200 miliardi, e con quelli lui farà la crescita. Equivale a dire crescita debito, però fatta in modo truffaldino. A questo punto conveniva tenerci Berlusconi e Tremonti, almeno evitavamo tutti questi 2 anni di guai. Ma Io, detta la verità, Maurizio, i guai ci sono stati regalati da quell'estate folle del 2011 dalle tre manovre, l'accelerazione fiscale, il non voler fare una riforma delle pensioni, magari fatta diversamente, ma che era stata chiesta dagli ambienti berlusconiani contro Tremonti. Però ne abbiamo già parlato in più puntate, ma rispetto al tuo punto di vista. Sentiamo Patrizia invece, Patrizia da Roma, come la pensa? Buonasera, io non sono una tecnica, quindi non sono in grado di capire cosa riuscirà a fare economicamente Renzi. Dico, dico soltanto una cosa: Renzi rappresenta comunque un nuovo, se anche un vecchio di quello che si promette di fare lo riuscirà a fare. Probabilmente molta gente che adesso fa il solone in Parlamento, non avendo combinato molto in questi anni, mi pare, perché non so cosa ha fatto la Finocchiaro, la Bindi, adesso non mi vengono in mente tutti i nomi, vorrei capire cosa credono di aver fatto e che adesso lo criticano tanto. Dovrebbero aver paura, anche perché mi pare che se gli riesce si appresta a mandare a casa 300 senatori, grosso modo, insomma, come numero. E quindi lei dice, diamogli tempo. Non lo lasciamo fare 10 giorni, non dico tanto, 10 giorni. Patrizia, diamogli tempo, è molto chiaro quello che dici. Nel frattempo Matteo Renzi ha iniziato il suo discorso ancora una volta rivolgendosi a chi lo ha criticato alla Camera dei Deputati, dicendo: mi accusate di non portare rispetto ai conformismi istituzionali, se volete, qui ha detto rivolgendosi all'opposizione, chiamate pure il telefono azzurro se pensate che io racconto cose troppo della mia infanzia, non cambierò, chiamate il telefono azzurro. È un'altra bella maniera, Fabrizio Rondolino, di far capire che non cambia stile, insomma. Beh certo, io no, perché io ho un'età, ho fatto cronista parlamentare per molti anni, non so, ho sentito un discorso di insediamento di Andreotti, l'idea che Andreotti possa, cioè, però questo ha ragione l'ascoltatrice, l'ultima signora che abbiamo sentito prima, cioè viva Dio, tra l'altro lui ci gioca anche, perché siccome quello che cercavo di dire prima è che il suo limite, almeno secondo me, non è appunto il modo, lo stile, anzi, ma invece un'agenda un po' confusa e non del tutto liberale come io mi augurerei, e invece concentrarsi tutto sull'aspetto, e lui naturalmente si gioca, rovescia questa cosa giustamente, ne fa un punto di forza e conquista consenso, e questo è un gioco comunicativo persino troppo facile, però questo è, e quindi, come dire, va bene così. Nel frattempo sta ricordando Enrico Berlinguer dicendo che quando le istituzioni erano rispettate, sta sempre criticamente rispondendo a chi dice qui siamo nelle istituzioni, dice no, guardate, voi dimenticate che ai tempi della Prima Repubblica il termine onorevole, degni di onore, era così tanto ancora pieno di significato che chi votava Democrazia Cristiana, quando sentiva onorevole Enrico Berlinguer, comunque riconosceva sia all'uomo che alla carica un rispetto. Voi praticamente non ne siete più degni, questo non l'ha detto così, ma questo è. Senti, ma questa durezza assoluta cui il Movimento 5 Stelle batte chiunque in aula nel tirare dietro e in testa a Matteo Renzi qualunque tipo di insulto, dipende secondo te da che cosa? Riprendersi nei sondaggi? Oppure timore, Fabrizio, che lui possa in qualche misura riuscire a apparire un nuovo che appanna un po' la novità del Movimento 5 Stelle? Tu come la vedi? Ma guarda, l'odio, o meglio lo scontro violento è reciproco. Renzi ieri al Senato ha menato praticamente soltanto i 5 Stelle, li ha presi in giro, li ha sfottuti, e loro, diciamo, hanno replicato a modo loro, quindi con un linguaggio particolarmente cruento. Ma lo scontro è puramente politico, io di questo sono convinto, devo dire, già da un po' di tempo. L'alternativa, il nostro bipolarismo non è Renzi Berlusconi o sinistra destra, il nostro bipolarismo reale è Renzi Grillo, cioè due forme diverse di rottamazione o di vaffa, a seconda, appunto, no? E già il modo in cui si presentano è emblematico poi, insomma, del loro carattere. Allora Renzi è la rottamazione democratica, il tentativo dentro una cornice istituzionale, ancorché strattonata, maltrattata, sputacchiata, di fare le cose. E Grillo invece è l'alternativa radicale, cioè un rinnovamento che poi non si saprà bene palingeneticamente come dovrà realizzarsi, ma per intanto piazza pulita, no? E questo è lo scontro. Renzi lo sa, infatti attacca i 5 Stelle, e secondo me è andato al governo per questo motivo qua, per dimostrare a un pezzo elettorato del 5 Stelle che in Italia, nonostante tutto, qualcosa si può fare. E Grillo, o per meglio dire Casaleggio, lo ha capito altrettanto bene, e quindi apre il fuoco, tira le bombe nucleari contro Renzi, perché se mai Renzi riuscisse a fare una cosa, e tutta l'impalcatura retorica dei 5 Stelle cade, o quantomeno ne esce lesionata. Allora, nel frattempo il Presidente del Consiglio ha ricordato quello che dice per la sua generazione essere stato il momento più basso in cui tutto era nero per la vita delle istituzioni, ha rievocato quando il Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Camera, quindi alle sue spalle rispetto a dove sta parlando adesso Renzi, accelerò l'elezione del Presidente della Repubblica dopo l'attentato di Capaci, quello in cui perse la vita Falcone e in cui Andreotti tramontò come candidato, era fortissimo, alle elezioni del Presidente della Repubblica. Allora, io ringrazio Fabrizio Rondolino perché nel frattempo noi abbiamo finito il nostro tempo, ho fatto un po' la doppia cronaca, però bisogna fare questo quando dobbiamo tenervi informati, e continuate con Radio 24, vedremo se davvero i numeri che mancano si vedranno, io me lo auguro perché non sono capace di dire che senza numeri sono convinto, però non sono di quelli che criticano il fatto che è poco istituzionale. Continuate con Radio 24, a domani.